cose che ho fatto. Non vado a letto se non sono le tre. Non mi ricordo neanche il mio compleanno. Figurati se mi ricordo di te. Con gli occhi chiusi gioco a camminare in bilico, perché mi piace solo se dopo precipito. Ma non mi va di fare le cose quando lo sai che non mi va. Di fare le pose sotto le luci in tutti i club. Ho il cuore che a pezzi ma non trovo l'altra metà. Oh baby, non mi va di farmi male ancora, di credere a una scusa. Nessuna storia nuova, sola io con me. Viviamoci in un'ora, domani cosa importa? È tardi, tardi, e non c'è tempo per tutti i rimpianti. Vuoi toccare un'altra volta la luna? Baby, lo sai che ti basta un'ora con me. Vuoi vedere che cos'è la fortuna? Baby, lo sai che ti basta un'ora con me. Vuoi sapere che cos'è la locura? Baby, lo sai che ti basta un'ora con me. Vuoi capire cosa ti fa paura? Baby, passa solo un'altra ora con me. Solo un'ora con me. Non mi dire che mi ami, non mi serve che mi parli se puoi usare le mani. Se vuoi possiamo legarci come nello shibari. Solo per 24 ore, solo fino a domani. Comunque figi, 1, 2, 3, se vuoi togliermi i vestiti. È come se camminassimo sui fili. So bene che nemmeno di me ti fidi, quindi niente feeling.